在tuoi occhi qui vicino a me. E cerco in ogni cosa il tuo volto, il tuo sorriso, le tue parole. Grido il tuo nome in faccia alle persone che non capiscono, che non capiscono. Lo sai che non mi basta sentirti per telefono. Io voglio di più, voglio molto di più. Voglio tutto quello che sei tu. Resta dove sei, sempre ferma nei pensieri miei. Voglio di più, sempre di più. Voglio tutto quello che sei tu. Voglio tutto quello che dai tu. Vorrei essere accendi per illuminare il mondo. Vorrei essere quel mondo che ti fa girare ancora un po' di più, ancora un po' di più. Voglio tutto quello che sei tu. Resta dove